che era nuovo, dentro era nuovo lui, l'ho passato sull'Intec, capito che aveva tutto il coso, frontalino nuovo, pomelli nuovi, coperchi nuovi, allora ho fatto quel lavoro lì, che c'ha solo quello, mi pare, però è un 34 canali, attenzione, con le bande laterali, FM e via dicendo, però è un 34 canali. Sì. Allora perché adesso i canali se sono 34 e sono 23, come racconti non sa, guardate che esteticamente cioè, si presenta bene e non è, diciamo, è accende pure. Avete parlato in due, non c'è capito niente. Aspetta, ricordi fai riprendere la tonina un attimo. Scusate. Oggi, ripeto, non mi interessa il canale sono 34, sono 23, capito? Non me ne frega niente. Vuoi che esteticamente si presenta bene, accende, tutto qua? Sì, funziona perfetto, sia in banda laterale, in FM. Ma sono così io, ma non lo dopo quasi mai. Ne ho anche altri, però... Allora, cosa c'ho? Che piccolo... Allora, no, l'altro è 40, sono di quelli piccoli, però vecchiarata, attenzione. C'ho un'ala 44 vecchiarata, si assomiglia al 48, però più piccolo, poi... Vabbè! Un attimino. Faietti, piccolino, sempre di vecchia razza, ce l'ho lì così, però non è che le adopero più di tanto, capito? Non le adopero proprio. Scusa, oggi, chi chiama Roberto, avanti? Tony, sono Manuele, Ginko. Ascolta, com'è la modulazione adesso? Sto provando 40 anni. La modulazione è buona, chiara e pulita, segnale quasi 9+20. C'è importante, ok. E se la piglia a noi, è importante. Ok, scusate amici, le ping pong con Luigi, o Gigi, insomma. No, veicolari non mi interessano, la verità, che c'è un veicolare se la giornata da una parte. Niente, se ci vogliamo vedere, ne parliamo e lo vediamo, non c'è problema. Che dici? Ah, so come vuoi, ma non è che... Io non è che... Sono a vendere, non vendo quasi mai. Anzi, ho tolto un po' di roba, dico la verità. Ho tolto un po' di roba, dico la verità, che... L'ho dato a Walter, poi non so chi l'ha dato lui, ho dato soltanto un eco bello che spettacolare, un brutto, cosa gli ho dato poi, non mi ricordo, comunque gli ho dato un po' di apparati, gli ho dati a Walter, a Salvucci, e mi ho tenuto qualcosa solo, capito, ho tolto fuori un po' di roba, qualche lineare a transistor, cosa di a 220, ho tolto tutto. E comunque conosco qualche Salvucci una vita. Vabbè, no, l'idea non mi interessa la conoscenza. No, come vuoi, se vuoi vedere qualcosa ci possiamo mettere d'accordo, ci vediamo. Se no come vuoi. No, io, anche se per mettere in vetrina è un conto. Se per il coso, vabbè, no, se no sono macchine che non adopero quasi mai. Capito? Non adopero quasi mai. Però le tengo lì, sono lì, però quelli più cosa li ho venduti, quelli più buoni li ho dati via, dai, li ho tenuto qua, questo che ce l'avevo in camion, questo il discorso delle luci, questo è un baracchino un po' grandetto, diciamo, ce l'avevo in camion. Però avendo i pomelli neri non vedevo, perché avendo tanti pomelli, la notte appeso in alto in camion, non vedevo quando dovevo andare, cambiare, fare e sbagliavo i tasti, capito? E allora cosa ho fatto? Li ho illuminati, però li ho illuminati anche i pomelli, tutto, l'ho fatto tutto. E ti dico una cosa, che non con una luce forte, una luce che non abbaglia, in camion parliamo, quando lavoravo in camion, quando viaggiavo, no? In vettura non lo so. Però tu vedevi benissimo, salivi lo sguardo e vedevi dove mettere la mano, le dita per girare i pomelli, capito? Invece diversamente non vedevo. E così avevo l'area 48, io li ho avuti sempre illuminati e ce li ho ancora a casa, illuminati da me, fatti i lavori sempre me li ho fatti io, li ho messo giustamente delle resistenze non troppo forti, di fare una luce troppo forte, che non ti abbaglia, che non ti dà fastidio. Io ce li ho tutti colorati così, quelli... Anche il brutto avevo illuminato, brutto, il tornado, i paracchini così, li ho tutti illuminati. Sì, sì, infatti detto, l'unica cosa che non dia fastidio, soprattutto i camionisti che devono stare attentissimi con un mezzo così grande, pesante, non devono essere interferire col buio della strada, ma se è fatto così ha messo luci tenue, non c'è problema. E poi la funzionalità di vedere i tastini sicuramente va molto meglio. Ma scusa, l'ala 88 non è un veicolare, Gigi? L'ala 88 c'ha le bande laterali, c'ha USB, tutte quelle cose così, FM, GW, e però 34 canali, AM, FM, capito, così, e però esce con 5 watt, non va oltre 5 watt, è fatto così. Aspetta un attimo, scusa Riccardo. Allora, l'ala 88 non è una stazione base, quello che conosco io, è un veicolare, confermi o che cosa? Sì, confermo. Ma Torino lui sta cercando una stazione base, a 220. Ah, 220 la sta cercando, no, questo no, no. 220, ah, lui intende come Saturn Eco, una cosa del genere. È base nel senso che ci abbia l'alimentatore a 220 o a 110, come Ruiz, che ci abbia il coso, il trasformatore. No, no, lui sta cercando una stazione base, veicolare in accia Pigantoni Vui. Lui vuole una stazione base, anche non perfettamente funzionante, però che sia efficiente esteticamente. Aspetta, Riccardo, dimmi. Un secondo ci voleva, volevo dire che mi stanno chiamando a mezz'ora, che devo andare via, devo uscire, ciao a tutti. Scusa Riccardo, non ti ho sentito, dai, ciao, buon proseguo di giornata, dai, avanti Tonino e poi Gigi per Riccardo. Ciao Riccardo, buon corretti, scusaci, ci sentiamo, saluto a Corea. Gigi, in effetti, stazione base, l'ho sempre detto dall'inizio. Ah no, io no, siccome non stavo ascoltando, era acceso, ma ero da una parte all'altra facendo cose, non ho capito, infatti ti dicevo cosa te ne fai, hai capito, è quello che ti dicevo io, cosa te ne fai, ecco perché adesso ho capito tutto, dai. Io infatti poc'anzi ho detto da poco, ho anche un vincolare, te l'ho giocato una base, ma non mi interessa, capito? Ed è un bel marachino quello che ho, tutto serigraffato addirittura. È un vincolare, non mi va bene, c'ho molti canali, vado alla pedale, non me ne affronti nulla. Come belletta, mi piace la roba mastrodontica. C'ho il pallino in testa così. Ho capito, Cos'è questo che dici tu che c'hai con le bande laterali vincolare, che cos'è? Un Connex 4000. Ah, come questo sto operando io adesso? E come questo, gemello di questo? No, l'ho messo in una scatola, non so neanche usato, non frega niente. È positivo, ma vanno bene, io ce l'avevo in camion, hanno una buona ricezione, se le, proprio non prendevano sbratteri. Io ce l'avevo in camion e l'ho avuto una vita io questo, proprio perché non prendevo sbatteri, allora ce n'era gente, io facevo Cagliari, fuori su in continente, tutti i canali c'era gente, se tu ti mettevi e non riuscivi, arrivavo lì a Cagliari, se non avevi uno di questi apparati non riuscivi a niente, perché ti sbratteravano tutte le parti, almeno questo era un po' più ammortizzato, diciamo, dai. Guarda, per quanto mi interessa quello che lo tocca e ti ho appena parlato, se mi danno la stessa immagine anche lui che non mi frega niente, gli lo do in cambio, questo è perfetto. Non ne ho più, gli ho date via, guarda, quelle a 220 l'ho date, dico la verità. Anzi, dille il DAC a vedere se è base. Che cosa? Il DAC in cambio per il Comex. Tanto a cosa? A, come te? A Valte, gli aveva fatto un amico che poi è morto. Per Alfa. Io ce n'ho uno di barattino base, che ce ne vogliono due di Galaxy Saturn Echo per arrivare a quanto è grande. Quello che è capitato. Cambiato, sono trasformato da due da. Devo fare un armadio, devo fare. Va. Niente, no, non ne ho. Non... Il più grande barattino al mondo. L'ultimo era le. Ma se sta parlando Gigi qua. Gigi, dimmi. Tu di veicolari sicuramente puoi dire la tua, cacchio, come esperienza come te, pochi ce l'hanno, modifiche, contromodifiche, ne ha provato proprio sul campo, li ha provati i baracchini, infatti quando abbiamo avuto qualche informazione su modifiche e cose, tu ne hai avuto di tutto e di più, perché le hai utilizzate sul campo, da quel punto di vista. Stazione base che mi ricordo tu non ne hai mai avuto, Gigi. Come stazione base? Sì, che l'ho sempre avuta. Questa è stazione base, è questa che sono adesso. No, base a 220, apparato base sto parlando. Sì, che l'ho avuto, anche... Sì, certo che l'ho avuto. L'ultimo l'ho dato da poco, quello base a 220 l'ho dato a cosa? Il Saturnecco, l'ho dato a Valte, capito? L'ultimo l'ho dato da poco. Boh, io ti ho sempre sentito con veicolari super tirati, modificati, con tutti gli effetti strani. No, vabbè, non mi ricordavo. Ok, dimmi una cosa, qualche doppione di commutatore antenna però seri, a più posizioni c'hai, Gigi? No, ne ho uno solo, guarda, uno che lo adottero. Veramente, non ne ho perché io... adesso non vedo neanche la marca, però è una marca che ne ho provato altri e mi hanno dato sempre problemi. Questo è, non mi ricordo la marca, adesso devo, è attaccato, però al contrario, la marca c'era dietro, al contrario non mi ricordo il nome della marca, comunque è una color blu, però c'è scritto CX 2010A. Ma quello in alluminio stai parlando? Quello impresso fusione alluminio? Io penso che sia in ghisa questo qua, credo che sia in ghisa. Quello è un bel ricordo, però quelli sono rari a trovarli a più di 3 posizioni. No, ne ho visto uno su internet che ha 6 antenne e 6 apparati, puoi collegare oppure incrociare per dire 4 antenne e 8 apparati, lo puoi modificare come vuoi. Questo qua della Nisei lo stanno vendendo 120 euro, nuovo fiammante, però non lo conosco come cosa. Io voglio quelli belli di una volta con i commutatori ceramici tipo il Magnum, che stacchi proprio, ti taglia completamente il segnale, chi viso il CTE o cose del genere, oppure l'altra marca, come si chiama, ZG, sono giocattoli, non vado, ne ho 4 o 5 di commutatori, ma efficienti, a parte quello della Magnum non ce n'è. Prendi quello della Nisei che lo fa la Daiwa. È buono per quel prezzo. È buono, un buon commutatore lo fa la Daiwa. Sono Daiwa, marcati Nisei, sono Daiwa, ce l'ho anche io della Nisei, un alimentatore, è buonissimo, prendilo al volo, 120 euro, ma prendilo subito però. A 6 punti, 6 più 6. Prendilo al volo, ti ho detto, la Nisei è Daiwa, capito? La Daiwa ha dato il marchio alla Nisei, è uguale, preciso, identico. È lavorato Daiwa. Ok, Gigi, era parecchio non ti sentivo, come mai? Poco impegno o poca voce? No, non è che poco, diciamo che sto facendo molti lavori a casa, ero molto impegnato, capito? E niente, ecco perché non è che, non per altro, dai. Poi quando ero libero accendevo qua, non c'era nessuno, poi è successo un po' che un po' di movimento, un po' di cosa, cioè da quando è successo questo un paio di mesi da questa parte, dai, che è successa questa cosa, non c'era nessuno, accendevo, non c'era mai nessuno. Comunque ciao Claudio, dai. Però vi devo lasciare un secondino perché io mi ho comprato i polpi ieri, mi ho preso i polpi e ci ho speso un po' di soldi, ci ho speso 26 euro e me lo sto facendo io a piacere mio, se no se me lo rovino sono un po' tutto, lo devo controllare, capito? Datemi 2 minuti di cosa che vado a controllare. Ok, e io adesso devo staccare un attimo, devo fare una telefonata, vai Tony, riprendi tu che io devo fare una telefonata a un amico, mi sono dimenticato. Ok, buon pomeriggio, ci sentiamo. Avanti Claudio, anche Claudio ci ha spostato. Gigi sta spostando, girando i polpi, andava bene. Ginko, Manuele ci sei. Sei entrato Gigi? Hai capito Tonino? Io c'ho un baracchino che è il baracchino più grande al mondo, non ce ne sono altri baracchini così. Ci vogliono 2 Galaxy, uno sopra l'altro, per fare la grandezza di questo. Ma è valvolare? Sì, è un valvolare, 40 canali più 40 più 40, 120 canali con l'SSB, non ha l'FM perché è americana, ma si assomiglia a un lineare da 2 kW, c'ha 4 strumenti grandi, tutti illuminati, con tutto quello che c'è, ma tutto però, tutto. Diciamo c'è il tuo numero, fatelo mandare, forse ce l'ha Roberto Riccardino, se c'è il numero Riccardino dici mandami la foto del DAC. E lui te la manda, è quella che ha Claudio, te la manda, non ce n'è per nessuno, ma non ce n'è per nessuno proprio, come bellezza e come grandezza, ma è bello, bello, bello, bello. Il mio numero c'è anche la Pereira Popoglio, io ho avuto un GX5000, un metà ne va, va a volare, bello, non è così mafronutico però, giustamente. Torino. Eia. Ciao. Franco da Sos, ma ti interessa veramente un base vintage? Un base stazione fissa. però poi vieni, te lo guardi, se ti piace di più un bus, se no lo lasci. Scappa, non resisto la sosta. Scappa. E come facciamo a ritracciarci? Io paracchino in macchina non ne ho. E tu telefoni, non avevo. Certo, io posso darti anche il mio numero di telefono qua in frequenza. Problemi non ne ho, guarda, con nessuno. Quindi. Ehi, scappa, a me va bene lo stesso. Se ti interessa, ce l'ho qua, che non c'ho il tuo numero, se no ti avrei mandato subito la foto. Allora ti mando già il mio numero così te lo registri, ne è che a te penna. E poi Claudio, c'è anche a te penna, scegliatela anche tu, così aggiusterete, mi puoi mandare la foto. Allora, 347 379 60 20, questo è il mio numero. Com'è 347? 347 379 60 20, Claudio. 70-20 347 379 60-20 6020. Ah, non ho capito, 70 no, allora 60. Non ho capito, non ho capito, sbagliato io, ne ho due numeri qui. Per gli amici uso questo e per le altre cose uso l'altro, per trambacco si intende. Segnato per lei, Claudio? Sì, ho segnato. Così, a caso. Quando vuoi mi puoi fare la telefonata, non c'è problema. O quando vuoi mi mandi su WhatsApp, ci sono anche su WhatsApp, ma con la foto non c'è problema. Capito? Sì, adesso te la mando. Ok. Franco. Ehi, a me non mi costa nulla, guarda. Se vuoi vengo anche adesso. Va bene. Ecco, allora, fammi lo squillo al mio telefono, così però quando sono già sorso ti posso chiamare. Guarda la fotografia. C'ho un cane disegnato, il mio cane, che è fotografato nel mio profilo. No, io non vedo niente nel tuo profilo. Infatti l'ho aperto adesso, ho toccato, non c'è niente. Adesso l'ho impostato adesso, è sul divano rosso il cane che c'avevo prima, ma me l'hanno ucciso. Adesso gli altri due però. Comunque bianco e nero. No, vabbè, io ti sto mandando un messaggio nel numero che mi hai dato, aspetta. Dimmi. Ok. Con me non me lo fa aprire. Ecco qua. Sta caricando. Nel filmino l'hai fatto? Uh-huh. L'hai fatto il video? No, ce l'ho fatto. Cioè, non hai fatto la fotografia col telefono, l'hai fatto il video? Non sta caricando, ma così oggi in mano è che ha fatto. Hanno cambiato, sono appena a metà, ancora caricando, piano piano. Dammi qualche minuto che me lo carica e che me lo guardo. Claudio, e tu non me l'hai mandata? No, aspetta. L'ho visto, sì, questo è come il patch più o meno che ho io. Ok, dai. Ok, mi mandi il numero. Non ce l'ho già il numero tuo. C'è scritto che Franco sopra. Non mi manda vocali, chiamate vocali, che non ce li ho io. Capito, Tony? Messaggi mandami, io le chiamate vocali non ce li ho. Ehi, allora, mi è scappato, Clap, io volevo registrare il tuo numero, stavo registrando diversamente, poi ho subito chiuso. Gappa, gappa. Ok, Franco. Era una mezz'oretta, va bene? Va benissimo. Ok. Vabbè, claro, non mi hai mandata. Sì, te le giuro mandendi. Te le ho mandate. Ehi, questo sta caricando. Esci via bicchiaga. Bello. Su. Quattro smitter grande c'ha. C'ha le smitter come praticamente gli strumenti esterni della ZG, sono uguali. E quello che c'è sopra invece, Cla? Quello è il Polmar Vintage, 23 canali, stazione base sempre. E quello non lo stai dando? No, Tony, l'ho preso da poco, ho fatto cambio con Gianni Capri 2, gli ho dato un 48. Lui ce l'aveva doppio e me l'ha dato a me, quello esce molto bene, quello è quello che mi senti ogni tanto. Con l'MB più 5 invece, l'MB più 5 attaccato. E basta, poi gli ho un'altra dentro l'armadio, vabbè, ma hai visto come sono organizzato, perché non tolto un bel di roba, se no non c'ho comunque posto, perché c'ho l'altra scrivania, dall'altra parte dove c'è tutta la parte del computer, capito? Quella è la mia sala radio, sono tutte radio HF, vabbè, però faccia, vabbè. E invece il bestione non lo vede neanche. Il bestione d'acqua? No. Un valore troppo alto, tanto non si può vendere, capito? Un valore troppo alto. Tu immaginati, l'ho pagato $400 con la radio. Arrivata da fuori, senza lo sdoganamento. Cos'era 20? No, lascia perdere. Ok, se me l'ho organizzato, dai. Andare. C'è amplificatore, è l'ultimo, quello HF, quello grosso. Basta, poi le radio sono tutte, se le guardi una per una, sono tutte HF. Sotto, visto, c'è la linea cable di completa, 430, 440, alimentatore, colonnina, microfono. Ma oggi sono organizzato bene, ma non c'era niente. Sono ordinato soprattutto, non organizzato. C'è gente che è più organizzata di me, ma io sono ordinato e mi piace avere tutto sotto controllo. Va bene, dai. Vai da Franco, mettiti a quello con Franco, una bella radio, quella, un bel vintage, 40 canali. La mia poi è 23 canali, capito? Quella è 40 canali, molto bella. Funziona anche molto bene. Sì, ma qua, io l'ho detto che mi interessava avere un 40 canali, anche da 23 non mi la funziona tutta, l'ho detto anche poco fa, capito? Io guardo la presenza dell'apparato, poi tenuto bene anche il tuo, si vede abbastanza bene, tutto ben ordinato, tutta un'altra cosa, dai. Io ho un mobiletto che mi sono fatto io, fa 2,5 come legname, e me l'ho fatto a modo mio, ho tutta l'attrezzatura in casa a te, adesso ho fatto per metterci la roba che ci voglio mettere io. E poi ho fatto uno sportello, poi tra l'altro, che sotto ci metto tanto, ci sono i ripiani, e un altro sportello diversamente orizzontale, che io lo abbasso e mi posso saldare qualche piele, mi posso fare quelli, i lavori che posso fare. Questo è un mezzo per quello che piace a me. Non ti ho capito, Fra. Ho detto, ma è questo, me lo verniciate solo un po' la carrozzeria, poi il resto me lo vuoi. E ce lo verniciamo, non c'è problema per quello. Mi sta arrivando un altro messaggio, cioè, è tutto qualche. Sì, non è giusto, è che da questo numero qua di chi è? Sta scrivendo. Nei book sarà di qualcuno che ti ha sentito e stai cercando la radio. Questa le basi le ha fatte Giulio, capito? Questo è tutto legno massiccio, legno massello, organizzato da Giulio, chiamata lui, era la stanza vuota, ma c'ho l'altra io che va a L praticamente, ma l'ho tolta perché non potevo aprire la finestra, c'era troppa roba, quindi mi sono organizzato diversamente. Va bene, dai, mettiti d'accordo con Franco, io rimango in quel X, ok? Yeah. È arrivato l'altro. Cos'è, un altro baracchino sto qua, che boh, non c'è numero. Boh, non lo so. C'è un televisore sopra, un Samsung. Sotto il baracchino, però mi sta scrivendo un messaggio, vediamo se hai conosciuto questa persona. E sì che l'ho conosciuta. E gli ha detto, io era poveraccio. Pare un boccio, mi pare, Chi è che l'ha mandato? Chi sì? Che l'ha mandato la foto adesso? Vabbè, scrivimelo al limite, hai copiato il mio numero di telefono, mi hai mandato se è il baracchino che. Non si presenta. Vabbè, dai, io metto le scarpe, dai, comincio a prepararmi, fra. Ehi, qua, come viene scendere la Sendori? Sì, di solito passo da là, passo, di solito. Da Sendori? Da prima quando arrivi all'entrata di Sendori, giri, e te ne scendi un po' stesso. Poi già mi diventa grande. Praticamente io ero il fornitore. Bravo, prima del distributore giri a sinistra, scendendo dalla Sassari. E non c'è, Fra, che una volta io ho fatto quella strada quando era interrotto Seno, che c'era, non so se c'era Carremaro o Semana Zucchiera, e mi stavo incasinando, mi stavo perdendo. Guarda, è facile. Vabbè, dai, mi preparo. Ok, a dopo. Ciao. Ciao Claudio, se si ascolta.